Di Grazia Deledda, Cenere, Mondo Libri Editore. Parte prima. Capitolo 1. Cadeva la notte di San Giovanni. Olì, nome che veniva dato a Rosalia, la protagonista, uscì dalla cantoniera biancheggiante sull'orlo dello stradale che da Nuoro conduce a Mamoiada e s'avviò per i campi. Era una ragazza quindicenne, alta e bella, con due grandi occhi felini, glauchi e un po' obliqui, e la bocca voluttuosa, il cui labbro inferiore, spaccato nel mezzo, pareva composto da due ciliegie. Dalla cuffietta rossa, legata sotto il mento sporgente, uscivano due bende di lucidi capelli neri attorcigliati intorno alle orecchie. Questa acconciatura e il costume pittoresco, dalla sottana rossa e il corsettino di broccato che sosteneva il seno con due punte ricurve, davano alla fanciulla una grazia orientale. Fra le dita, cerchiate di anellini di metallo, Olì recava strisce di scarlatto e nastri coi quali voleva segnare i fiori di San Giovanni, cioè i cespugli di verbasco, di timo e d'asfodelo, da cogliere l'indomani all'alba per farne medicinali e amuleti. D'altronde Olì pensava che anche non segnando i cespugli che voleva cogliere, nessuno glieli avrebbe toccati. I campi intorno alla cantoniera dove ella viveva col padre e i fratellini erano completamente deserti. Solo in lontananza una casa campestre in rovina emergeva da un campo di grano come uno scoglio in un lago verde. Nella campagna intorno moriva la selvaggia primavera sarda. Si sfogliavano i fiori dell'asfodelo e i grappoli d'oro della ginestra. Le rose impallidivano nelle macchie, l'erba ingialliva, un caldo odore di fieno profumava l'aria grave. La Via Lattea e l'ultimo splendore dell'orizzonte, fasciato da una striscia verdastra e rosea, che pareva il mare lontano, rendevano la notte chiara come un crepuscolo. Vicino al fiume, la cui acqua scarsissima rifletteva le stelle e il cielo violaceo, Olì trovò due dei suoi fratellini che cercavano grilli. A casa, subito! Ella disse con la sua bella voce ancora infantile. No, rispose uno dei bimbi. Allora voi non vedrete spalancarsi il cielo stanotte. I bimbi buoni nella notte di San Giovanni vedono aprirsi il cielo e poi vedono il paradiso, il Signore e gli angeli e lo Spirito Santo, ma voi vedrete un cornino se non andate a casa subito. Andiamo, disse pensieroso uno dei bimbi. L'altro protestò ancora un po', ma finì col lasciarsi condurre via dal fratello. Olì andò oltre l'alveo del fiume, oltre il sentiero, oltre le macchie di olivastro. Qua e là si curvava e legava con un nastro le cime di qualche cespuglio. Poi si rizzava e scrutava la notte con lo sguardo acuto dei suoi occhi felini. Il cuore le balzava forte, d'ansia, di timore e di gioia. La notte fragrante invitava all'amore e Olì amava. Olì aveva 15 anni e con la scusa di segnare i fiori di San Giovanni andava a un convegno amoroso. 6 mesi prima, una sera d'inverno, un giovane contadino, mezzadro di un ricco proprietario nuorese, a cui appartenevano i campi intorno alla casa in rovina, era entrato nella cantoniera per chiedere un po' di fuoco. Era un giovane alto, con lunghi capelli neri, lucidi d'olio. I suoi occhi nerissimi non si lasciavano quasi guardare, tanto erano luminosi. E soltanto Olì poteva fissarli con i suoi che non si abbassavano davanti a nessuno. Il cantoniere, uomo ancora giovane ma già grigio, stanco di fatiche, di affanni e di miseria, accolse benevolmente il contadino. Gli diede una pietra focaia, lo interrogò sul suo padrone e lo invitò a tornare sempre che voleva. Da quella sera il contadino frequentò assiduamente la cantoniera. Nelle sere piovose raccontava storielle ai bambini, raccolti intorno al focolare fumoso, e ad Olì insegnò i posti ove meglio crescevano i funghi e le erbe mangerecce. Un giorno egli trasse la fanciulla fin verso un avanzo di nuraghe, sopra un'altura, fra macchie coperte di bacche rosse, e le disse che fra i blocchi della tomba gigantesca stava nascosto un tesoro. E poi so di tanti altri. Acusorgius, egli disse con voce grave, mentre Olì coglieva finocchi selvatici. Io finirò bene col trovarne uno, un tesoro nascosto, e allora? E allora? chiese Lì, un po' beffarda, sollevando gli occhi che al riflesso del paesaggio parevano verdi. Allora me ne andrò lontano e se tu vorrai venire con me ti porterò via, in continente. Io conosco bene il continente perché è da poco tempo che ho finito il servizio militare. Sono stato a Roma e poi in Calabria e in altri posti ancora. Là tutto è bello, se tu verrai. Olly rise, piano piano, lusingata e felice, sebbene un po' ironica. Dietro il nuraghe, due dei suoi fratellini, nascosti in una macchia, fischiavano richiamando un passero. Per l'immensità del paesaggio non s'udiva voce umana. Non passava nessuno. Il servo prese Olly per la vita, la sollevò, chiuse gli occhi e la baciò. E da quel giorno i due giovani s'amarono selvaggiamente, diffondendo il segreto della loro passione alle macchie più silenziose, ai cespugli della riva, ai neri nascondigli dei nuraghes solitari. Oppressa dalla solitudine e dalla miseria, Olly amava il giovine per ciò che gli rappresentava. Per le cose e le terre meravigliose che gli aveva vedute, per la città dalla quale veniva, per il ricco padrone che serviva, per i fantastici disegni che gli tracciava nell'avvenire. Ed egli amava lì perché era bella e ardente, entrambi incoscienti, primitivi, impulsivi ed egoisti. Si amavano per esuberanza di vita e per bisogno di godimento. Anche la madre di Olì, a quanto narrava la figliuola, era stata una donna fantastica e ardente. Ella era di famiglia benestante, raccontavo lì, ed aveva parenti nobili che volevano maritarla con un vecchio possidente. Mio nonno, il padre di mia madre, era un poeta. In una notte improvvisava tre o quattro canzoni, e tanto erano belle che appena un cantastorie le ripeteva per la strada, tutto il popolo le apprendeva e le ripeteva con entusiasmo. Ah, sì, mio nonno era un gran poeta. Alcune sue poesie le so anch'io, insegnatemi da mia madre. Aspetta, senti questa. Ella recitava qualche strofa in dialetto logudorese, poi riprendeva. Il fratello di mia madre, zio Merzioro de Sogos, dipingeva nelle chiese e scolpiva i pulpiti, però si uccise perché aveva da scontare una condanna. Sì, i parenti di mia madre erano nobili e istruiti, e tuttavia ella non volle sposare il vecchio proprietario. Vide invece mio padre, che allora era bello come una bandiera, se ne innamorò e fuggì con lui. Ella soleva dire, mi ricordo, mio padre mi ha diseredata, ma non importa, gli altri si tengano le loro ricchezze, io mi tengo il mio Micheli e basta. Un giorno il cantoniere si recò a Nuoro per comprare del frumento e ritornò più triste e disfatto del solito. Olì, bada a te, Olì, disse alla figlia minacciandola con la mano. Guai se quel servo rimette ancora piede qui. Egli ci ha ingannati persino sul suo nome. Disse di chiamarsi Quirico e invece si chiama Anania. È oriundo di Orgosolo, razza di pastori, parente di banditi e di galeotti. Bada a te, donnicciola, egli ha moglie. Olì pianse e le sue lagrime caddero assieme col frumento entro l'arca di legno nero. Ma appena l'arca fu chiusa e zio Micheli tornò al lavoro, la fanciulla andò in cerca del servo. Tu ti chiami Anania, tu hai moglie, gli disse, e gli occhi le fiammeggiavano di rabbia. Anania finiva di seminare il grano sul prato smosso. Due merli cantavano, dondolandosi su una fronda d'olivastro. Grandi nuvole bianche rendevano più intenso l'azzurro del cielo. Tutto era dolcezza, silenzio, oblio. Ecco, disse il giovane che teneva ancora la bisaccia sulla spalla. Io ho una moglie vecchia. Ah, me la diedero per forza, come i parenti volevano dare a tua madre il vecchio possidente, perché io sono povero ed ella ha molti soldi. Ma che cosa importa? Ella è vecchia e morrà presto. Noi siamo giovani, Olì, ed io voglio bene soltanto a te. Se tu mi abbandoni, io muoio. Olì si intenerì e credette. E che faremo ora? Domandò. Mio padre mi bastonerà se continueremo ad amarci. Abbi pazienza, agnellino mio. Mia moglie morrà presto. Ma anche non morisse, io troverò il tesoro e ce ne andremo in continente. Olì protestò, pianse. Non sperò molto nel tesoro, ma continuò ad amoreggiare col servo. La seminagione era terminata, ma Anania andava spesso in campagna per osservare se il grano spuntava e per estirpare le male erbe dal seminato. Nelle ore di riposo, Invece di coricarsi, egli diroccava il nuraghe, con la scusa di costruire un muro con le pietre divelte dal monumento, ma in realtà per cercare il tesoro. Se non qui, altrove, ma lo troverò, diceva Dolì. Ebbene, Amaras, un servo come me, trovò un fascio di verghe d'oro. Egli non si avvide che erano d'oro e le consegnò ad un fabbro. Stupido, ma io mi accorgerò bene. Nei Nuraghes, raccontava poi, abitavano i giganti che usavano le masserizie d'oro. Persino i chiodi delle loro scarpe erano d'oro. Oh, si trovano sempre dei tesori cercandoli bene. A Roma, quando io ero soldato, vidi un luogo dove si conservano ancora le monete d'oro e gli oggetti nascosti dagli antichi giganti. Anche ora, del resto, nelle altre parti del mondo vivono ancora i giganti e sono così ricchi che usano gli aratri e le falci d'argento. Egli parlava sul serio, con gli occhi splendenti di sogni aurei. Se però gli avessero chiesto che avrebbe fatto dei tesori che sperava ritrovare, forse non avrebbe saputo dirlo. Per allora progettava soltanto la fuga con Olì. All'avvenire non pensava che in modo fantastico. Verso Pasqua, la fanciulla ebbe occasione di recarsi a Nuoro e, domandate notizie della moglie di Anania, seppe che costei era una donna anziana, ma niente affatto benestante. Ebbene, egli disse, appena Olì gli rinfacciò la sua menzogna. Sì, ella adesso è povera, ma quando la sposai era ricca. Dopo le nozze io andai al servizio militare, mi ammalai, spesi molto, anche mia moglie si ammalò. Oh, tu non sai cosa vuol dire una lunga malattia. Poi prestammo dei denari e non ce li restituirono. E poi credo un'altra cosa, che mia moglie tenga i denari nascosti. Ecco, ti giuro che è così. Egli parlava seriamente e Olì credeva. Credeva perché aveva bisogno di credere. E perché Anania l'aveva abituata a ritenere vere le cose più inverosimili, suggestionato egli stesso dalle sue fantasie. Così, verso i primi di giugno, zappando in un orto del padrone, egli trovò un grosso anello di metallo rossiccio e lo credette d'oro. Qui ci deve essere certamente un tesoro, pensò, e subito andò a raccontare le sue nuove speranze ad Olì. La primavera regnava nella campagna selvaggia, il fiume azzurrognolo rifletteva i fiori del Sambuco. I narcisi esalavano voluttuose fragranze. Nelle notti rischiarate dalla luna o dalla Via Lattea, tiepide e silenti, pareva che nell'aria ondeggiasse un filtro inebriante. Olì vagava qua e là con gli occhi velati di passione, nei lunghi crepuscoli luminosi e nei meriggi abbaglianti. Quando le montagne lontane si confondevano col cielo, ella seguiva con uno sguardo triste i fratellini seminudi, neri come idoleti di bronzo. E mentre essi animavano il paesaggio con le loro grida di uccelli selvatici, ella pensava al giorno in cui avrebbe dovuto abbandonarli per partire con Anania. Ella aveva veduto l'anello ritrovato dal giovane e sperava e aspettava col sangue arso dai veleni della primavera. Olì! Chiamò la voce di Anania dietro una macchia. Olì tremò. Avanzò cauta, cadde fra le braccia del giovane. Sedettero sull'erba ancora tiepida, accanto ad un fascio di puleggi e dal loro selvatico che esalava un forte profumo. Quasi quasi non venivo, disse il giovane. La padrona deve sgravarsi stanotte e mia moglie, che sta ad assisterla, voleva che io restassi in casa. No, le dissi, stanotte devo cogliere il puleggio e l'alloro, non sai che è San Giovanni? E son venuto, ecco. Si frugava in seno mentre Olì toccava l'alloro chiedendo a che serviva. Non lo sai dunque. L'alloro colto stanotte serve per medicina e per tante altre cose. Se, per esempio, tu spargi le foglie di quest'alloro qua e là sui muri intorno ad una vigna o ad un ovile, gli animali rapaci non potranno penetrarvi, né rosicchiare l'uva né rapire gli agnelli. Ma tu non sei pastore. Oh, io però guarderò la vigna del padrone, poi queste foglie le metterò anche intorno all'aia perché le formiche non rubino il grano. Verrai tu quando io batterò il grano? Ci sarà molta gente, faremo festa e alla notte canteremo. Oh, mio padre non vorrà, ella disse sospirando. Ma è curioso quell'uomo, si vede che non conosce mia moglie, ella è decrepita come le pietre, disse Anania, sempre frugandosi in seno. Ma dove l'ho messa? Che cosa? Tua moglie? Chiese maliziosamente Olì. Ebbene, una croce. Ho trovato anche una croce d'argento. Anche una croce d'argento? Dov'era l'anello? E tu non me lo dicevi? Ah, eccola, sì, è d'argento, vero? Egli trasse di sotto l'ascella un involtino. Olì lo svolse, palpò la crocetta e domandò ansiosa: Ma è dunque vero? Il tesoro c'è? E pareva così felice che Anania, sebbene avesse trovato la crocetta in campagna, credette bene di lasciarla nella sua illusione. Sì, là, nell'orto, chissà quanti oggetti preziosi ci saranno, ma bisognerà che io frughi di notte. Ma il tesoro è del padrone. No, è di chi lo trova, rispose Anania, e quasi per avvalorare questo suo principio, egli cinse Olì con un braccio e cominciò a baciarla. Se io troverò il tesoro, tu verrai? Le chiese tremando. Verrai, dimmi, fiore. Bisogna che io lo trovi subito, perché non posso più vivere lontano da te. Ah, vedi, quando vedo mia moglie sento voglia di morire, mentre vorrei vivere 1.000 anni con te, fiore mio. Olì ascoltava e tremava. Intorno era profondo silenzio. Le stelle brillavano sempre più perlate come occhi sorridenti d'amore e sempre più dolci erravano nell'aria i profumi delle erbe aromatiche. Mia moglie morrà presto, Olì, cuoricino mio. Sì, che fanno i vecchi sulla terra? Chissà, fra un anno forse noi saremo sposi. San Giovanni lo voglia, sospirò lì. Ma non bisogna desiderare la morte di nessuno. E ora lasciami andare. Oh, rimani ancora un po', egli supplicò con voce infantile. Perché vuoi andartene così presto? Che farò io senza di te? Ma ella si alzò, tutta vibrante. Forse ci rivedremo domani mattina, perché coglierò le erbe prima che sorga il sole. Ti farò un amuleto contro le tentazioni. Ma egli non aveva paura delle tentazioni. Si inginocchiò, cinse Olì con ambe le braccia e si mise a gemere. No, non andartene, fiore. Rimani ancora un poco, Olì, agnellino mio. Tu sei la mia vita. Ecco, io bacio la terra dove tu posi i piedi. Ma rimani. Rimani ancora un poco, altrimenti io muoio. Egli gemeva e tremava e la sua voce commuoveva Olì fino alle lagrime. Ella rimase. Solo in autunno zio Micheli si accorse che sua figlia aveva peccato. Una collera feroce invase allora l'uomo, stanco e sofferente, che aveva conosciuto tutti i dolori della vita fuorché il disonore. A questo si ribellò, prese Olì per un braccio e la cacciò via di casa. Ella pianse, ma zio Micheli fu inesorabile. Egli l'aveva avvertita le 1.000 volte e forse avrebbe perdonato se ella avesse peccato con un uomo libero, ma così no, no, non poteva perdonare. Per qualche giorno Olì visse nella casa in rovina intorno alla quale Anania aveva seminato il grano. I fratellini le portavano qualche tozzo di pane, ma zio Micheli se ne accorse e li bastonò. Allora Olì, per non morire di fame e di freddo, giacché l'autunno copriva di grandi nubi livide il cielo e il vento umido soffiava attraverso le macchie arrossate dal gelo, s'avviò verso Nuoro per chiedere aiuto all'amante. Fosse caso o avvertenza, a metà strada incontrò Anania che la confortò e la coprì col suo gabbano e la condusse a Fonni, paese di montagna al di là di Mamoiada. Non aver paura, disse il giovine. Ora ti conduco da una mia parente, presso la quale starai benissimo. Sta tranquilla, che io non ti abbandonerò mai. La condusse in casa di una vedova che aveva un figliolino di 4 anni. Nel vedere questo bambino nero, lacero, tutto orecchie d'occhi, Olì pensò ai fratellini e pianse. Ah, chi si sarebbe più curato dei poveri orfanelli? Chi avrebbe dato loro da mangiare e da bere? Chi preparerebbe il pane nella cantoniera? Chi laverebbe più i panni nel fiume azzurro? E chi avrebbe mai di zio Micheli? Il povero vedovo, febbricitante ed infelice. Basta. Olì pianse un giorno e una notte, poi si guardò attorno con occhi foschi. Anania era partito. La vedova Fonnese, pallida e scarna, con un viso di spettro, circondato da una benda giallastra, filava, seduta davanti a un fuocherello di fuscelli. Tutto intorno era miseria, stracci e fuliggine. Dal tetto di schegge annerite dal fumo pendevano tremolanti grandi tele di ragno, pochi arnesi di legno formavano le masserizie della misera casa. Il bimbo dalle grandi orecchie, vestito già in costume con un berrettone di pelle lanosa, non parlava né rideva mai, soltanto si divertiva ad arrostire castagne fra la cenere ardente. Abbi pazienza, figlia, disse la vedova alla fanciulla senza sollevare gli occhi dal fuso. Sono cose del mondo. Oh, ne vedrai delle peggiori se vivrai. Siamo nate per soffrire. Anch'io da ragazza ho riso, poi ho pianto e ora tutto è finito. Oh, lì si sentì gelare il cuore. Oh, che tristezza immensa. Fuori cadeva la notte, faceva freddo, il vento rombava con un fragore di mare agitato. Al chiarore giallognolo del fuoco, la vedova filava e ricordava, e anche lì, accoccolata per terra, ricordava la notte calda e voluttuosa di San Giovanni, il profumo dell'alloro, la luce delle stelle sorridenti. Le castagne del piccolo Zuanne scoppiavano fra la cenere che si spargeva sul focolare. Il vento batteva furiosamente alla porta come un mostro scorazzante nella notte cupa. Anch'io, disse la vedova dopo un lungo silenzio, anch'io ero di buona famiglia. Il padre di questo moscherino si chiamava Zuanne perché, vedi, sorella cara, ai figli bisogna sempre mettere il nome del padre affinché gli somiglino. Ah, sì, era molto abile mio marito, alto come un pioppo, vedi là il suo gabbano, e ancora appeso al muro. Olì si volse e sulla parete color terra vide infatti un lungo gabbano d'orbace nero, fra le cui pieghe i ragni avevano tessuto i loro veli polverosi. Non lo toccherò mai, riprese la vedova, anche se dovrò morire di freddo. I miei figli lo indosseranno quando saranno abili come il padre loro. Ma che cos'era il padre? Chiese Olì. Ebbene, disse la vedova senza cambiar tono di voce ma col viso spettrale lievemente animato. Egli era un bandito. 10 anni stette bandito, sì, 10 anni. Egli dovette darsi alla campagna pochi mesi dopo le nostre nozze. Io andavo a trovarlo sui monti del Gennargentu. Egli cacciava mufloni, aquile, avvoltoi, ed ogni volta che io andavo a trovarlo, egli faceva arrostire una coscia di muflone. Dormivamo all'aperto, sotto il vento, sulle cime dei monti, ma ci coprivamo con quel gabbano là. E le mani di mio marito ardevano sempre, anche quando nevicava. Spesso si stava in compagnia. Con chi? Domandò Lì, che ascoltando la vedova dimenticava le sue pene. Anche il bimbo ascoltava con le grandi orecchie intente. Sembrava una lepre quando sente il grido della volpe lontana. Ebbene, con altri banditi. Erano tutti uomini abili, svelti, pronti a tutto, specialmente alla morte. Tu credi che i banditi siano gente cattiva? Tu ti inganni, sorella cara. Essi sono uomini che hanno bisogno di spiegare la loro abilità, null'altro. Mio marito soleva dire, anticamente gli uomini andavano alla guerra. Ora non si fanno più guerre, ma gli uomini hanno ancora bisogno di combattere e commettono le grassazioni, le rapine, le bardanas, non per fare del male, ma per spiegare in qualche modo la loro forza e la loro abilità. Ah! Bella abilità, zia Grazia. E perché non si battono la testa al muro se non hanno altro da fare? Tu non capisci, figlia, disse la vedova, triste e fiera. È il destino che vuole così. Ora ti racconterò perché mio marito si fece bandito. Ella disse si fece con una certa fierezza, non priva di vanità. Sì, raccontate, rispose Olì con un lieve brivido per le spalle. L'ombra adensavasi, il vento urlava sempre più forte, con un continuo rombo di tuono. Pareva di essere in una foresta sconvolta dall'uragano e le parole e la figura cadaverica della vedova in quell'ambiente nero, illuminato solo a sprazzi dalla fiamma lividognola del misero fuoco, davano ad Olì un'infantile voluttà di terrore. Le pareva di assistere a una di quelle paurose fiabe che Anania aveva narrato ai suoi fratellini ed ella stessa, con la sua miseria infinita, faceva parte della triste storiella. E la vedova raccontò.